Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Mancano poche ore, per quello che si sa, alla conferenza Stato-Regioni che si svolgerà appunto domani mattina, con la quale si deciderà il quarto conto energia e quindi il futuro del fotovoltaico. È un vero parto, non trovo altri termini più adeguati, che arriva dopo due mesi nel corso dei quali si è sentito tutto il contrario di tutto, inclusa ogni possibile cifra riguardo il costo delle rinnovabili e del fotovoltaico in particolare. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza, ci facciamo aiutare in questo da Massimo Ricci. Massimo Ricci è direttore della direzione mercati per l'autorità per l'energia elettrica e il gas. Buonasera Ricci. Buonasera a voi. In linea con noi c'è anche l'ingegnere Andrea Galliani, che è il responsabile dell'unità fonti rinnovabili della stessa direzione. Salve Galliani. Buonasera. Dunque Ricci, cominciamo da lei. La prima cosa che dobbiamo spiegare è che il costo dell'energia è composta da una parte che è legata al costo proprio di produzione dell'energia, poi ci sono le imposte e infine ci sono i cosiddetti oneri generali, all'interno dei quali ricadono anche, ma non solo, gli incentivi alle rinnovabili. Partiamo da qui. Quali voci contengono oggi questi oneri generali e quanta parte di questi oneri è riconducibile alle rinnovabili? Allora, gli oneri generali di sistema oggi rivestono circa il 12%, diciamo, della spesa annua media della famiglia tipo nell'energia elettrica. Di questi la maggior parte, che sono quelli della cosiddetta componente A3, che copre i propri costi alle fonti rinnovabili e per una piccola parte alle fonti assimilate, e questa componente A3 riveste circa l'85% di questa componente oneri di sistema. E in termini assoluti di euro? In assoluti, diciamo, totali a livello di sistema nazionale, sì. Siamo intorno ai 5 miliardi di euro circa. Di oneri nel loro complesso. Sì, esatto. E quindi 4 miliardi e mezzo sono la tariffa 3. Dunque Galliani, lei che si occupa proprio di questo specifico comparto, la tariffa 3 abbiamo detto che contiene le rinnovabili ma anche le cosiddette assimilate. Che cosa sono? Spieghiamolo. Queste assimilate, che peso hanno sulla tariffa 3? Beh, prima di tutto le fonti assimilate rientrano nell'ambito del cosiddetto provvedimento CIP 6, sì, 1992, e sono quegli impianti che utilizzano residui, recuperi, tardi raffineria. Ci sono anche gli impianti cogenerativi a gas. Ecco, considerando che stiamo parlando sempre del 2010, questo non l'abbiamo detto, è importante dirlo, tolti i finanziamenti di cui parlavamo, CIP 6, quanto alla fine rimane effettivamente sulle rinnovabili? Sulle rinnovabili in A3 nell'anno 2010 abbiamo circa 2 miliardi e 800 milioni. 2 miliardi e 800 milioni possono essere divisi sostanzialmente in quattro mondi. C'è il mondo dei CIP 6 relativo agli impianti rinnovabili, sì, che ha un'incidenza di circa 700 milioni di euro. D'accordo. Poco più. Abbiamo un secondo mondo, che è quello dei certificati verdi, ma per la sola parte riferita al ritiro da parte del GSE dei certificati verdi invenduti. Allora, non entriamo nei dettagli, i certificati verdi servono a pagare sostanzialmente l'eolico, diciamo così, le biomasse e quant'altro, una parte in A3, una parte fuori, non entriamo nei dettagli, sommati quanto danno? Sommati danno circa, riferiti al 2010, 1,5 miliardi. Ok, quindi 1,5 miliardi va per i certificati verdi. E quindi? Una parte in A3 circa 900 milioni di euro. D'accordo. Oltre a ciò abbiamo le cosiddette tariffe fisse onnicomprensive, che incentivano, sì, gli impianti rinnovabili piccoli. Piccoli, sì. Che incidono per circa 200 milioni di euro. D'accordo. Riferimento all'anno 2010. E alla fine resta il fotovoltaico, che nel 2010 è costato? Poco più di 800 milioni di euro. Ok, questi 800 milioni di euro sono relativi a che potenza installata? Con riferimento al 2010 parliamo di 2800 megawatt, ma è una potenza installata che chiaramente sta aumentando tantissimo, soprattutto in questi ultimi mesi. Ecco, in questi ultimi mesi a che punto siamo arrivati? Beh, stimiamo di arrivare al termine del 2011 intorno agli 8000 megawatt, con un costo che potrebbe sfiorare o comunque essere poco più basso dei 3 miliardi di euro. Ok, quindi 3 miliardi di euro all'anno per 20 anni, perché questo è il conto, perché questi incentivi vengono riconosciuti per 20 anni. Ricci, io tornerei a lei a questo punto. Ecco, lei ritiene che questa situazione sia da considerarsi equilibrata, cioè che alle diverse fonti rinnovabili, premesso che stiamo in realtà parlando solo di energia elettrica, ma che alle diverse fonti rinnovabili sia assegnata la stessa dignità? Beh, a livello di dignità, come fonti tutte meriterebbero lo stesso incentivo. Questo è un problema, diciamo, che, diciamo, come autorità di fatto ci riguarda molto poco, nel senso che fa parte proprio della politica industriale del governo quello di stabilire dei livelli di incentivazioni per le diverse fonti che tengano in qualche modo conto anche delle prospettive di sviluppo. Detto questo, credo che sia un po' di dominio comune e credo che sia anche un po' oggetto dell'intervento che si sta facendo una certa idea di ridimensionamento su certi livelli di incentivi per un problema che anche l'autorità ha segnalato negli ultimi 2 anni, banalmente di sostenibilità. Ecco, ma c'è una fonte che esce, diciamo, dal seminato? Perché se no lo devo dire io. No, l'ho detto prima che di fatto la parte di incentivazione del fotovoltaico è quella che merita sicuramente d'accordo. Di essere rivista. Ecco, di recente è stato pubblicato uno studio di cui abbiamo anche parlato qui a Mr. Kilowatt, nel quale si afferma che il fotovoltaico ha ridotto i prezzi dell'energia elettrica per una serie di ragioni complicate, ma fondamentalmente perché produce nelle ore in cui la domanda di energia è massima e ha buttato, per così dire, fuori mercato, questa è la tesi sostenuta, una serie di impianti molto costosi. In 30 secondi lei cosa pensa di questo studio? Lo possiamo prendere per buono? Allora, certamente c'è un impatto positivo sul prezzo. Sulla quantificazione di questo impatto probabilmente qualche riserva ce l'avremmo e dovremmo studiare meglio i numeri sottostanti a questi studi. Ecco, è un impegno che volete prendere, insomma, possiamo arrivare a capire un po' insieme quant'è questo impatto sulla diminuzione dei costi dell'energia, mi sembra un tema interessante. Sicuramente delle simulazioni si possono fare, avere un'idea quantomeno dell'ordine di grandezza corretto. Grazie Ricci, grazie Gagliani. A voi, buona serata. A voi, buonasera. Bene, per stasera è tutto, domani direi non c'è dubbio, si parlerà di quarto conto energia. Buona serata.